Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Bert di Berta Thompson. Capitolo 9. Di settimana in settimana la disciplina della banda, che imponeva un'assoluta e costante segretezza, mi annoiava sempre più. Avevo deciso che sarebbe stato vano tentare ancora di convincere Otto ad abbandonare quell'esistenza criminosa, eppur amandolo sapevo che il suo modo di vivere non avrebbe potuto mai appagarmi pienamente. E non soltanto perché non mi piacevano il crimine e la vita incerta, furtiva del criminale, ma anche perché ero sicura che l'atteggiamento casuale e distaccato di tutti i membri della banda verso la propria vita amorosa non avrebbe potuto mai soddisfarmi. Sembravano tutti estranei alla vita e a qualsiasi rapporto umano intenso. Sapevo che dormivano insieme, ma ebbi sempre l'impressione che i loro rapporti sessuali fossero fortuiti, secondari rispetto a qualsiasi altra cosa. Dopo un po' cominciai a rendermi conto che probabilmente somigliavano tutti a Otto. Il sesso per Otto non era cosa di cui parlare. Durante il giorno mi guardava come una qualunque, come se non fossi stata tra le sue braccia tutta la notte. Quando parlava di donne, discuteva sempre soltanto delle loro abilità latresche o comunque di qualcosa che riguardava il loro talento e il loro buon senso. Mi accorsi che non potevo fare a meno di avercela con lui per come mi trattava. Se trascorrevamo insieme una splendida notte d'amore, non sempre riuscivo a cancellarla dalla mente appena mi alzavo dal letto. Lui invece ci riusciva, faceva proprio così. E se io gliela rammentavo, tagliava corto, cambiando discorso. Di notte faceva l'amore con me, come se rappresentassi per lui una possibilità di fuggire da qualcos'altro, come se potessi aiutarlo a dimenticare. Ma non voleva parlarne, sembrava che parlare d'amore lo annoiasse e gli altri non erano diversi da lui. Dopo qualche mese cominciai a chiedermi se quell'inibizione non fosse dettata dall'imbarazzo. Si vantavano di essere gente di fegato, tipi duri, non volevano parlare della loro intimità per paura di rammollirsi. Tra i delinquenti i matrimoni erano rari. La filosofia era: se non attacca senza matrimonio, non attacca neanche con. Tuttavia, il fatto che rifiutassero il matrimonio non significa che non credessero nella fedeltà, tutt'altro. All'interno del loro gruppo uomini e donne erano rigorosamente fedeli gli uni alle altre. Nessun componente di una banda avrebbe mai tentato approcci sessuali con la ragazza di un amico. Gli uomini si concedevano raramente scappatelle e sempre con prostitute. Ho saputo soltanto di una donna che stava con un ladro donnaiolo. Quasi tutti i borsaioli erano sposati e in qualche parte del paese avevano una moglie alla quale mandavano soldi. Parecchi avevano anche figli che venivano tenuti all'oscuro dell'attività paterna. La vita sociale di questi delinquenti era limitata dal loro ambiente. Non avevano amici all'esterno e non ne cercavano. Naturalmente avevano molte conoscenze tra gli organizzatori di aste truccate, i ricettatori, i gestori dei banchi di pegno, gli avvocati e i medici. Tutti costoro sapevano bene quali erano i loro mezzi di sostentamento. Mi ero sempre chiesta quali connessioni vi fossero tra delinquenti di professione e politici. Scoprii che ve n'erano poche. In genere il ladro non chiede favori politici. Quando si ficca nei guai, paga qualcuno perché sistemi la faccenda. Una convivenza tra criminalità e politica esiste nelle grandi città, soprattutto per ciò che riguarda lo sfruttamento della prostituzione, il gioco d'azzardo, il commercio clandestino di liquori, i sindacati, e viene attuata con l'aiuto della piccola delinquenza locale. I veri professionisti del crimine non sanno neppure chi è il sindaco e non se ne curano. Devono sapere soltanto che dai politici si va con i soldi e sanno che i soldi funzionano ugualmente bene con i repubblicani e con i democratici. E sono stati utili anche con i socialisti di Milwaukee e con gli agrolaburisti di Minneapolis. Pare che abbiano fatto miracoli persino con i riformisti. I delinquenti professionisti hanno imparato che quando vanno da un maneggione, questi non chiederà mai per chi hai votato e neppure quanti voti puoi procurarmi, bensì quanto denaro contante hai con te. I delinquenti che ebbe modo di frequentare amavano mangiar bene, ma senza eccessi. Osservandoli mi resi conto della mia ignoranza in materia di cibo e di posate. Quella gente sapeva distinguere una forchetta per ostriche da una forchetta per insalata. Scoprii che erano dei buon gustai, avvezzi a delicatezze gastronomiche: avocado, caviale, olive farcite con acciughe, carciofi. Constatai anche con sorpresa che bevevano poco, facevano un mestiere rischioso e per motivi di sicurezza dovevano mantenersi sobri. Non si poteva presentarsi all'appuntamento con i postumi di una sbornia. Quelli che se ne fregavano e alzavano il gomito nel cabaret, mi fu detto, non duravano a lungo. Per contro, molti dei malviventi con i quali vissi e molti dei borsaioli, dei taccheggiatori e dei truffatori professionisti che conobbi in quel periodo usavano narcotici. Direi che uno su quattro all'incirca era tossicodipendente. Anna e Jake fumavano la pipa da oppio, che è costituita da un fornello rotondo con diametro di 7-8 centimetri, munito di una cannuccia di bambù con diametro di 5 centimetri e lunga circa 45 centimetri. Ho visto pipe da oppio di vario tipo, ma l'attrezzatura di corredo di Anna e Jake era speciale, perché comprendeva sei fornelli e quattro cannucce, tre piccole lampade portatili che bruciavano olio di arachidi, una dozzina di yen yok, simili ai ferri per lavorare a uncinetto, ma più sottili e flessibili, si usano per preparare la pallina di oppio, i 3 yen shogus, attrezzi di ferro che servono a rimuovere la yen shi, cioè la cenere dell'oppio, dalla cavità del fornello. Quando potevano, Anna e Jake fumavano 2 volte al giorno. Ma nel gruppo c'era anche chi fumava 3 o 4 volte al giorno. Inoltre si organizzavano festini ai quali partecipavano anche fumatori non abituali, cioè quelli che indulgevano all'oppio solo occasionalmente per godere del piacere, della compagnia e dell'intimità che la pipa offriva. Chiunque può imparare rapidamente a sniffare la cocaina o l'eroina, oppure a iniettarsi la morfina sottocute o in vena. Per preparare la pipa da oppio, invece, occorrono una certa esperienza e un'attrezzatura non indifferente. Non ci volle molto perché il gruppo si abituasse ad avermi tra i piedi ed effettuasse tranquillamente tutte le operazioni necessarie in presenza mia e di Otto, che al pari di me non fumava. Il lattice di oppio in mattonelle o in palle si acquista dai trafficanti, solitamente per $55 alla libra. Anna e Jake spendevano per la roba circa $85 al mese. Trasformavano da soli il lattice in catrame, un'operazione che è pericoloso effettuare in proprio. L'oppio ha un odore molto forte, penetrante, che un olfatto esercitato può percepire anche a notevole distanza e dopo un cospicuo lasso di tempo. Si deve far sciogliere l'oppio a bagnomaria fino a ottenerne una massa sciropposa che si filtra più volte attraverso un pezzo di garza. Alla sostanza così ottenuta si aggiunge un po' di glicerina. Poi si versa il tutto in un'ampolla di vetro opaco. Il residuo, costituito da foglie, rametti e steli della pianta che rimane nella pezza di garza, si butta via. L'oppio, trasformato in questo modo, sembra catrame e così viene chiamato. Non ho mai usato l'oppio, ma l'ho visto fumare molte volte. Con lo Yen Ok, il fumatore ne prendeva un pezzetto grande quanto un pisello e lo teneva sopra la fiamma della lampada fino a quando assumeva un bel colore marrone dorato. Aumentava di volume circa 4 volte. A quel punto lo schiacciava con la mano per farlo solidificare di nuovo. Poi, sempre tenendolo con lo Yen Ok, lo rimetteva sopra il fuoco della lampada. Infine lo modellava con le dita in una forma conica, la cosiddetta pillola. La pillola veniva infilata nella bocchetta, una piccola apertura nella parte superiore del fornello, staccandola dallo Yen Ok. Il fumatore portava alla bocca la cannuccia di bambù, tenendo il fornello della pipa sopra il fuoco delle lampade, in modo che l'oppio, per effetto del calore, vaporizzasse e potesse essere inalato come fumo. Un paio di brevi tiri e lo chef preparava un'altra pillola per qualche fumatore non sufficientemente esperto. Anna, Jake e altri consumatori abituali di oppio fumavano stando sdraiati sul letto o su un materasso steso sul pavimento, ma prima di iniziare tappavano il buco della serratura, sigillavano con nastro adesivo le fessure intorno alla porta e coprivano porte e finestre con lenzuola bagnate. Anche la tecnica della fumata vera e propria era piuttosto complessa. Tutto avveniva molto velocemente. Per fumare una pillola bastavano 10 secondi. Anna, che ebbe modo di osservare più volte, portava la cannuccia alle labbra e inalava rapidamente. Tirava da 6 a 8 brevi boccate. Poi, mentre i polmoni si riempivano, finiva con un'ultima, lunga boccata per aspirare dalla pillola tutto il fumo possibile. Il fumatore abituale cerca di provocare un senso di soddisfazione del quale ha bisogno. In realtà non fuma tanto per piacere, quanto per allontanare il dolore e l'angoscia di cui soffre quando è privo di oppio. Anna era una fumatrice abituale e aveva appetiti che soltanto l'oppio era in grado di soddisfare. Lei la metteva così: faccio provvista di fumo alla sera quando vado a letto e poi di nuovo al mattino quando mi sveglio. Fare provvista di fumo per lei significava assumere oppio in quantità sufficiente a evitarle sofferenze e inquietudini. Chi fuma oppio per piacere e solo occasionalmente reagisce in modo diverso. Ebbi modo di osservare alcune donne che stavano imparando a fumare. Dopo la prima pillola cominciavano a dare segni di esuberanza e provarono un senso di benessere. Divennero ciarliere, le loro emozioni aumentarono fino alla quarta pillola, poi subentrò un senso di sonnolenza e in breve si addormentarono. Alcuni segni di esuberanza continuarono a manifestarsi anche dopo 8 ore di sonno. Per quanto ho potuto sapere, nessun fumatore di oppio abituale occasionale ha avuto mai sogni fantastici o illusioni di grandezza e neppure ha fatto mostra di particolare coraggio. L'attività sessuale dei fumatori d'oppio si riduce notevolmente, viene meno il desiderio e anche le energie diminuiscono alquanto. Anna mi confessò che i rari rapporti sessuali non le davano più alcuna emozione. Tutti gli altri consumatori abituali erano nelle medesime condizioni. Ai fumatori occasionali invece l'oppio faceva l'effetto di un potente eccitante, che tuttavia ritardava notevolmente il raggiungimento dell'orgasmo. Lucille e Jimmy usavano roba bianca, cioè eroina e morfina, che sono alcaloidi dell'oppio. La roba bianca si vende in pani o cubetti o in polvere. A New York costa $20 l'oncia. Il nostro gruppo se ne faceva spedire per posta via nave 10 once per volta, ma non ne teneva mai in giro più di un'oncia. Il resto stava al sicuro, in una cassetta presso una banca di Chicago, e quando la banda non era in città si metteva d'accordo con qualche amico che all'occorrenza gliela spediva. Lucille e Jimmy si portavano sempre appresso un piccolo malloppo di eroina cucito nei vestiti che fungeva da provvista di emergenza, ad esempio in caso di arresto. L'eroina veniva usata più della morfina perché si poteva inalare. Lucille mi disse che il suo vizio le costava come minimo $35 al mese. Se qualcosa impediva il regolare rifornimento da New York, era gioco forza rivolgersi a un fornitore di Chicago, che però vendeva a $35 l'oncia, invece che a 20. A quell'epoca ignoravo, ma ora lo so, che pochissime donne vagabonde usano droga di qualsiasi genere. Neppure l'1%, secondo i dati che conosco. Innanzitutto le donne sulla strada sono invariabilmente al verde e la droga costa. Lo stesso dicasi delle donne che trascorrono gran parte del loro tempo nei ricoveri. Tra le sorelle della strada sono dedite alla droga soltanto le donne per le quali il vagabondaggio è secondario rispetto ad altre attività illegali. Le ladre e le prostitute che viaggiano occasionalmente alla maniera dei vagabondi talvolta si drogano. Più che al nord, il fenomeno è accentuato al sud, dove c'è una specialità, la sigaretta di marijuana. La marijuana, o erba, come la chiamano, è in realtà una sorta di hashish lievemente modificato dalla cultura sul suolo americano. È arrivata negli Stati Uniti dal Messico, New Orleans e tutte le città del sud ne sono piene. A New Orleans, nella città vecchia, è normale coltivarla nel giardino dietro casa, ma si trova anche in tutte le città del nord. Nella zona sud di Chicago c'è un vero e proprio campo di marijuana selvatica, che viene raccolta dai messicani e da piccoli trafficanti all'ingrosso. La marijuana è popolare perché si prepara facilmente e dà sensazioni forti a bassissimo prezzo. Si fanno seccare le foglie e i fiori e ci si confezionano sigarette un po' più esili di quelle normali, con le estremità ritorte per non fare uscire l'erba. In quasi tutte le città si trovano anche a 25 centesimi l'una. A New Orleans ne davano due per un quartino. Fumata nel modo giusto, una sigaretta può far viaggiare almeno 3 persone per una notte intera. Otto era l'unico della banda con cui stavo che avesse fumato marijuana. Aveva smesso, diceva, perché non voleva prendere l'abitudine. Io lo vidi acquistarne soltanto 2 volte, una a Filadelfia, dove entrò semplicemente in una sala da biliardo e comprò una sigaretta al banco dei sigari, e un'altra a New Orleans, a una festa in Damine Street. Eravamo arrivati a New Orleans in auto da Savannah e per 3 giorni durante il viaggio i ragazzi si erano dati da fare raggranellando un bel bottino. Otto l'aveva scampata bella. L'ultimo giorno era stato pizzicato e aveva dovuto scanciare $200 a un maneggione per farsi tirare fuori. Era estate e faceva un caldo terribile. Di sera nelle stradine del quartiere francese c'era un'afa soffocante. Improvvisamente Otto ebbe voglia di erba e dopo una rapida indagine tra i perdigiorno che ciondolavano intorno al salone di Tony Vaccaro acquistammo mezza dozzina di sigarette da un carbonaio che aveva una botteguccia in St. Anne Street. Otto non aspettò neppure di essere in albergo, ne accese una subito e uscì in strada fumando. Fece pochi rapidi tiri, poi me la passò. «Provala, piccola», disse. Già rinfrancato, ti farà passare dispiaceri. Non sciuparla però, aspira il fumo a piccoli tiri e tienilo nei polmoni per un minuto, poi buttalo fuori lentamente, così, basta per la prima volta. Non vedi tutto più roseo? All'inizio l'effetto non fu granché, la sigaretta aveva un sapore dolciastro, L'aroma inconsistente, smorto, mi diede quasi la nausea, ma dopo il secondo tiro cominciai a sentirmi allegra e spensierata. Otto spense la sigaretta schiacciandola con cura nel palmo della mano e se la mise in tasca. Stavolta conserviamo il mozzicone, cara mia, disse gioviale. È buono fino all'ultima pagliuzza. Tò, fumati una sigaretta normale. Farà durare di più l'effetto dell'altra. Mentre ci dirigevamo verso il vecchio mercato francese, gli oggetti per strada mi apparvero d'un tratto estremamente vividi. I colori erano più brillanti, le cose e le persone più grandi, le luci risplendevano di più e i loro aloni sfumavano in tonalità rosse e verdi. Eravamo insolitamente allegri, ridanciani. Tutto quello che Otto diceva sembrava importantissimo. La gente ci divertiva. La mia seconda esperienza a Chicago con la banda fu anche l'ultima. Stavo guardando le vetrine dei negozi, badando a evitare quelle di Filenes, dove sapevo che i ragazzi stavano lavorando, quando fui fermata da due agenti in borghese. Dissero di avermi vista in compagnia di certi tipi dall'aria sospetta e cercarono di convincermi a dire i loro nomi. Negai di conoscere le persone a cui si riferivano e a quel punto fui io a dover spiegare chi ero. Non pensai abbastanza in fretta e dissi la verità, come facevo di solito in circostanze come quella. Ero una hobo, spiegai. Stavo andando un po' in giro per il paese ed ero appena arrivata in quella città. Mi diedero un'occhiata, risero e mi portarono alla stazione di polizia di LaGrange Street. Guarda che vagabonda abbiamo pescato, dissero al sergente, e anch'egli risse quando vide com'ero vestita. Nella mia borsetta trovarono quasi $100 e la chiave della stanza d'albergo. Mi sentii venir meno. Lucille e Otto mi avevano avvertita più volte di non portarmi appresso la chiave. Mi fotografarono, mi presero le impronte digitali e mi chiusero in cella. Il sergente Lake telefonò all'albergo e chiese chi occupava la stanza. Fortunatamente la chiamata fu ricevuta da un impiegato amico della banda. Naturalmente dovette fornire l'informazione richiesta, ma capì che si trattava della polizia e avvertì Otto, il quale se la diede a gambe prima dell'arrivo della squadra. Nella stanza gli agenti trovarono soltanto la mia borsa. Poi vollero sapere dov'era quel signor Smith che si era registrato come mio marito. Non lo sapevo, dissi. Trascorsi la notte in cella, poi ricevetti la visita dell'avvocato di Otto, che mi disse di non preoccuparmi. Sarei stata rilasciata e avrei dovuto incontrarmi con Otto all'hotel l'indomani. Intorno a mezzogiorno il processo fu semplicissimo. Mi dichiarai non colpevole di tutto ciò di cui mi accusarono, e il giudice, quando scoprì che non avevo precedenti, propose che lasciassi la città. Mi restituirono la borsetta, dalla quale qualcuno aveva sottratto $70. Sentivo di aver commesso una sciocchezza, e quando vidi la faccia di Otto ne ebbi la certezza. Bene, carina, finalmente sei riuscita a farti sbattere in gattabuia, e per un pelo non ci hai tirato dentro tutti quanti, disse. Abbiamo discusso un po' su di te, Berta, e abbiamo deciso che sei troppo buona per una banda come la nostra. La tua valigia è già pronta e qui ci sono $100. Ho paura che la vita di città non faccia per te, piccola. Torna ai tuoi carri merci e non lasciarli più, se sei furba. Non mi disse neppure una parola di saluto. Ormai conoscevo bene Otto e sapevo che di giorno non avrebbe mai rivelato ciò che sentiva. Quanto a me, ero a terra, ma cercai anch'io di non darlo a vedere. D'altra parte, la mia educazione, la mia esperienza rendevano più facili le separazioni, brusche e inattese. Presi il treno per Providence, poi il battello per New York. Esteriormente ero calma, ma il mio cuore languiva per Otto. Lo desideravo come non avevo mai desiderato altro nella vita. Libri ribelli. Facendo due pezzi, bambini che io sono. ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.